emergeva un sentimento quasi di fastidio nei confronti di questa eredità. Invece per la nuova immigrazione ci troviamo di fronte a un fenomeno diametralmente opposto, ossia c'è una sorta di allarme sociale permanente e continuo. Di questa nuova immigrazione purtroppo mancano i dati fondamentalmente, molto mal misurata, le istituzioni non vi dedicano abbastanza attenzione. Tu che idea ti sei fatto in termini meramente numerici? È una situazione veramente difficile perché si parla tanto di un fenomeno che in realtà non si conosce. Non si conosce perché non abbiamo dei dati certi a cui appoggiarci. I dati dell'AIRE ci danno 30.000 giovani l'anno che lasciano l'Italia. Secondo me questi dati sono largamente sottostimati. Da un'indagine qualitativa le cifre sono almeno 3 o 4 volte maggiori. Il problema è che il sistema anagrafico per i residenti all'estero, l'AIRE, non comporta nessun tipo di vantaggi. Praticamente da un'analisi dei blog, le lettere che riceviamo alla redazione del giornale italiano, ci rendiamo conto che quasi nessuno dei giovani residenti all'estero sono iscritti all'AIRE. Nel tuo libro tratti anche le politiche di attrazione o riattrazione dei cosiddetti cervelli. Uno dei problemi maggiori dei giovani italiani quando provano a tornare e che trovano le porte sprangate, altri paesi no. Quali sono i casi migliori? Io ho analizzato 3 casi, diciamo. Uno è quello degli expat anglosassoni, in particolar modo quelli inglesi, ma una situazione che si può anche riferire agli australiani e ai neozelandesi. In Inghilterra c'è un approccio totalmente diverso al residente all'estero che viene seguito in qualsiasi fase del suo trasferimento e della sua permanenza all'estero. Ci sono una grande mole di servizi dedicati agli expat che è diventato un vero e proprio stile di vita, una vera e propria filosofia. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia di Lorenzo Tione, restiamo ora nel cuore della Silicon Valley per raccontarvi un'altra straordinaria vicenda di imprenditoria innovativa, quella di Loris De Giovanni, 37enne Senior Director of Technology per l'azienda californiana Riverbed. Anche per lui un percorso simile a quello di Tione: prima ha fondato una propria startup, poi l'ha ceduta a un colosso a stelle e strisce. Abbiamo incontrato Loris lo scorso gennaio. Nome: Loris. Cognome: De Giovanni. Età: 36 anni. Città di origine: Vinadio, in provincia di Cuneo. Studi: dottorato di ricerca al Politecnico di Torino. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Per andare dove? In California. Perché? Da prima come ricercatore, poi per fondare un'azienda. Quale lavoro svolge attualmente? Senior Director of Technology per un'azienda che si chiama Riverbed. Dove? A San Francisco. Tornerai? Non lo so. La carica di Bruce Springsteen, Born in the USA, ci introduce alla storia di Loris De Giovanni. Loris, con te oggi una partenza d'impatto. Subito 2 flash da una tua recente intervista che ben convogliono la diversa visione che ti ha fornito la Silicon Valley. L'impresa: tu affermi qui un giovane imprenditore è un ragazzo che si rimbocca le maniche e si dà da fare, non il figlio di un vecchio imprenditore. L'università: dove lo trovi in Italia un barone universitario che lascia la cattedra, tira fuori 50.000 euro e si mette in affari con uno studente con solo un'idea in tasca? Partiamo da qui. Cultura di imprese di Ateneo: c'è un'Italia da ricostruire? Loris, come? Quello che è veramente diverso qui rispetto all'Italia è la cultura del rischio. Cultura del rischio che è sicuramente parte integrante della cultura americana molto più che di quella italiana, e che di sicuro università come Stanford sono maestre a coltivare minimizzando gli attriti fra le aziende e i corsi universitari e i professori. In generale però la mancanza di rischio è anche e soprattutto mancanza di ottimismo. Iniziamo come sempre dalla tua storia di studi, laurea in ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Cosa ti ha spinto verso questo settore? Scrivere software, utilizzare le istruzioni di un computer come mattoncini per costruire qualcosa di utile e bello. Tu in università ci resterai per qualche anno, e qual è il tuo giudizio complessivo sulla qualità della formazione superiore in Italia? Giudizio mio è eccellente, sia perché mi ha messo in condizione di competere a livello mondiale, sia perché poi mi ha permesso di raccogliere un sacco di talento che poi è stata una parte integrante del mio successo qui. Già durante la tesi laurea lanci un software open source, si chiamava WimpCap, 80.000 download, e questo successo poi si rivela decisivo nel farti guadagnare un dottorato all'Università di Torino. Non hai avuto paura di un futuro da precario nel mondo della ricerca italiano? A essere onesto, no. Da neolaureato mi ricordo di aver discusso queste cose con i miei genitori e con mio padre, che mi facevano questo tipo di domande. E ho sempre avuto questo amore, questo orgoglio malsano per quello che facevo. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti. Nel 2004, l'occasione della vita, dalla University of California Davis ti chiama il professor John Bruno, che ti convoca oltreoceano. Per fare cosa, ma soprattutto come è avvenuta questa chiamata? Mi ha convocato per fare ricerca. Io a quel punto lì stavo facendo il dottorato al Politecnico di Torino, per fare ricerca con lui in California. Quando questa chiamata, che poi è stata un'email, è avvenuta, io ero in Nuova Zelanda. John mi ha mandato una mail sulla mailing list, sul gruppo di discussione di WimpCap, chiedendomi se qualcuno del mio gruppo di ricerca era interessato a venire a fare un periodo di ricerca con lui in California. Pensavo un professore italiano si sarebbe comportato in questi termini, devo dire, mentre parlavi. Loris, com'è stato l'impatto con la Silicon Valley? Per quel che riguarda la vita di tutti i giorni è stato abbastanza spettacolare, perché quello che mi ha colpito immediatamente della California e dell'area di San Francisco in particolare è l'apertura verso il diverso, l'accettazione dello straniero. Il lato professionale è stato abbastanza curioso inizialmente, vedere quanto seriamente venivo preso nonostante la mia giovane età, nonostante la mia pochissima esperienza e nonostante la scarsa padronanza dell'inglese. La tua storia assomiglia a un'enorme matrioska russa, perché a ogni step corrisponde una svolta inaspettata. Dopo neppure un anno di dottorato in California molli tutto, ti trascini dietro il professore, una decisione folle, la definisce a giovanitalenti@radio24.it. abbandonate l'università e per fare cosa? Creiamo una startup, la fondiamo nel 2005. Si chiamava Case Technologies e aveva Wireshark come prodotto di punta. In sintesi, cos'è Wireshark? Quello che facciamo noi è fornire sistemi per l'accesso alle reti a basso livello. Quello che permettiamo di fare noi è osservare le reti a questo livello qui. L'inizio in una mansarda. Tra l'altro noti immediatamente che gli ingegneri americani non vengono da te, vanno da Facebook, vanno da Google, vanno da Yahoo. E allora cominci a richiamare giovani di talento dall'Italia, dal Piemonte, dal Politecnico, ma anche da altre regioni. Cosa li spinge a venire da te? Quando la mia azienda è stata acquisita circa un anno fa, a quel punto lì avevo quasi 15 ragazzi dall'Italia. Praticamente tutto il mio team di ricerca e sviluppo era fatto da giovani neolaureati italiani. Per quel che riguarda i miei ragazzi, penso che la cosa più interessante, quella che li abbia stimolati a venire qua, sia stato lavorare su un progetto interessante di livello mondiale. Una cosa che ho notato è che importare talento dall'Italia sta diventando progressivamente più facile. Nell'autunno del 2010, l'ultima per ora svolta, Casetech, appunto, come hai anticipato, viene acquisita dalla multinazionale Riverbed, e tu insieme al team lavorate ora per Riverbed. Di cosa ti occupi? Ora sono Senior Director of Technology per Riverbed. In pratica quello che faccio è guido la strategia tecnica della business unit di Riverbed che ha acquisito la mia azienda. Questa business unit si chiama Cascade, conta circa 100 persone, genera diverse decine di milioni di ricavi all'anno. Nella definizione di talento in fuga non mi sento molto a mio agio. Ho lasciato l'Italia non per rinuncia né per stanchezza, nemmeno per rabbia. L'ho fatto per inseguire una passione, così scrivi a giovanitalenti@radio24.it. In un'altra intervista però osservavi come l'area imprenditoriale in California sia diversa, come esista oltreoceano un tessuto sociale in grado di riconoscere e valorizzare il talento. Perché l'Italia non offre un terreno di gioco così attrattivo? Devo tantissimo alla nazione che mi ha formato, non solo professionalmente ma anche come persona. Ho avuto un'istruzione di livello mondiale al Politecnico di Torino, nonostante i miei genitori non siano milionari. Tutte queste cose, se fossi nato negli Stati Uniti, non le avrei avute. Gli Stati Uniti sono stati bravissimi a sfruttare l'investimento che l'Italia ha fatto in me e ora io le tasse le pago qui. Tu usi la metafora del campo di gioco. Immaginiamo che tu sia un ragazzo giovane che ha speso anni a allenarsi per poter giocare da titolare in una squadra importante. Hai la tua prima partita, entri in campo, il tuo allenatore ti fa giocare, la possibilità di giocartela, e se segni il gol, se sei veramente bravo, a quel punto lì è successo. Questa è la Silicon Valley. Invece l'Italia, ti alleni per tutta la tua giovinezza, c'è la partita della tua vita, il tuo allenatore 5 minuti prima decide di mettere in campo suo nipote, che è un brocco. I risultati di questa cosa qui sono che da una parte quelli bravi non vogliono più giocare in questa squadra e d'altra parte quando questa squadra va a giocare con le squadre vere perde 10-0. È una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri protagonisti di puntata. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? Il problema